L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa, come ogni settimana il nostro appuntamento per camminare insieme all'Europa. La quotidianità, l'attualità politica e sociale dell'Europa viene raccontata da Radio 24 giorno per giorno. Noi il sabato cerchiamo anche altri punti di vista, sì all'Europa delle leggi, sì all'Europa dei trattati, ma ci piace anche l'Europa delle contaminazioni, della cultura, delle storie, delle persone. Un programma in collaborazione con Euronet Plus, network di radio europee, tante voci diverse per un percorso comune. Le coordinate euronetplus.eu, il sito ufficiale, visitatelo perché ci sono tanti dossier, tante inchieste, tanti approfondimenti. Invece se volete trovarci sulle nostre piazze virtuali, chiocciola Euronet Plus R24 oppure chiocciola Federico Taddia, il mio account personale. Lì ci trovate sia su Twitter sia su Facebook. Ogni settimana un viaggio. Oggi partiamo dalla Sardegna. Eccola l'Europa delle storie, l'Europa delle persone, l'Europa delle idee. Premio EWIN, l'innovazione, il premio per l'innovazione europeo. Quest'anno è stato assegnato a un'italiana, un'inventrice. Diamo il benvenuto a Daniela Ducato. Salve Daniela, benvenuta all'Altra Europa. Grazie, buongiorno a tutti voi. Un premio importante, un riconoscimento internazionale, l'Europa che guarda all'innovazione, l'Europa che guarda alla creatività. Daniela, cosa ha fatto per meritarsi questo importante riconoscimento? Beh, intanto tengo a precisare che il riconoscimento è molto importante e la cosa più bella è che è un riconoscimento che va a me, ma come portatrice di una rappresentante di una squadra di lavoro, quindi io mi faccio parte di una squadra, di un bel gruppo di lavoro di cui ho la fortuna di far parte, quindi è personale, ma un premio così non si può raggiungere, a meno che non si sia proprio geniali, ma non è certo il mio caso. E invece l'economia collaborativa, il sapere condiviso, il far squadra che ci ha portato in questi anni a trovare soluzioni innovative, vantaggiose per l'ambiente, per il paesaggio e anche per l'economia. E quindi è un riconoscimento che chiaramente ci teniamo stretti con molto orgoglio, ma come ogni premio, più che rappresentare un punto di arrivo, rappresenta sempre un punto di partenza. Certo, è uno stimolo. Allora, Daniela Ducato, lei ha fondato Edilana, questa è la motivazione del premio. Daniela Ducato, ideatrice di Casa Verde CO2.0, un esempio per il mondo, ha creato i materiali per l'efficienza energetica carbon free e per l'edilizia verde, più eco-friendly e innovativi d'Europa. Ha coniugato il passato e il futuro della Sardegna, perché so che è partito proprio dalla lana di pecora sarda in chiave termica, giusto? Sì, per l'efficientamento termico, quindi si tratta di primi materiali, sono stati quelli appunto per l'isolamento termico acustico e anche per la salubrità delle case, quindi c'è una componente da una parte ambientale, ecologica, ma dall'altra sempre i materiali devono tener fede all'efficienza prestazionale, tecnica, e infatti Edilana in questi anni ha ricevuto diversi premi non solo per l'impatto ecologico ma anche per quello tecnico prestazionale, dimostrando che le alternative alla petrolchimica ci sono anche dal punto di vista tecnico, quindi non dobbiamo usare la petrolchimica perché è migliore, ma quella sarà una scelta di chi vorrà continuare a usarla, ma le soluzioni ci sono. E Daniela, che cos'è l'architettura di pace? L'architettura di pace è proprio questo, il petrolio è la prima causa al mondo delle guerre o comunque di tutto ciò che crea diseguaglianza sociale e anche cambiamento climatico. Io opero in un settore, quello dell'edilizia, che è il settore più inquinante e più impattante al mondo e il materiale più utilizzato in questo mio settore è proprio il petrolio, quindi in qualche modo l'architettura, la progettazione si lega alla petrolchimica, si lega al petrolio e quindi architettura per la pace vuol dire ridisegnare nuovi scenari, progettare senza petrolio perché questo è possibile. E noi l'abbiamo dimostrato con i prodotti di Casa Verde, quindi ridisegnare scenari dove l'architettura non usa la petrolchimica. E comunque un'altra cosa importante da dire è che oltre a non usare la petrolchimica, l'architettura non deve neanche più usare l'agricoltura, cioè abusare dell'agricoltura. Ricordo che in nome del green tanti territori e tanti paesaggi vengono abusati, certo. E viene tolta l'agricoltura, quindi il cibo, per produrre materiali per l'architettura, quindi dobbiamo rimparare a utilizzare ciò che invece è eccedente e quindi che non deve compromettere il suolo e le risorse idriche. Un messaggio che è arrivato nel cuore dell'Europa, e da qui questo premio, il premio della Rete delle Donne Europee Inventrici e Innovatrici EWIN 2013. Grazie davvero Daniela, complimenti a lei e a tutta la squadra. Grazie e buon sabato a tutti. Grazie ancora. Adesso un Europost-it e le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Scientix, un portale europeo per la scienza. Scientix è un portale nato per riunire e mettere in comunicazione la comunità per l'educazione scientifica in Europa, con lo scopo di facilitare la condivisione di conoscenze e buone pratiche nell'insegnamento delle scienze in tutta Europa. Scientix è aperto a insegnanti, ricercatori, responsabili delle politiche, soggetti locali, genitori e chiunque sia interessato all'educazione scientifica. Sul sito si possono trovare e condividere i materiali didattici e le relazioni sulle ricerche che provengono dai progetti europei per l'educazione scientifica finanziati dall'Unione, ma anche tante altre iniziative nazionali. I materiali sono disponibili in 6 lingue, tra cui l'italiano, e si può richiedere un servizio di traduzione on demand. Scientix è gestito da European SchoolNet, per conto della Direzione Generale della Ricerca della Commissione Europea. Per saperne di più e conoscere anche le novità aggiunte in questo ultimo anno, andate a visitare il portale scientix.eu. L'altra Europa. Inici. Termine. Gagnare. Perdere. Resista. Prossiga. Pense global. Pense local. Sogni. Quello che state ascoltando è uno spot in portoghese in vista delle prossime elezioni europee. Agire, reagire, decidere. Questo è lo slogan, questa è la colonna sonora portante che ci sta accompagnando verso questo importante appuntamento, perché è ora di agire, è ora di reagire, è ora di decidere. Un voto che non è una formalità, ma un voto che veramente può segnare il cammino dell'Europa, questa Europa che sceglie, questa Europa che è passata all'azione, questa Europa che non è più un'entità a noi estranea, ma è un'entità che accompagna la nostra quotidianità. Ma l'Europa è una opportunità soprattutto, ed è quello che cerchiamo di sottolineare tutte le volte che possiamo farlo qui all'altra Europa. Agire, reagire, decidere come? Beh, sono tante le proposte che stanno nascendo per avvicinarsi con consapevolezza alle elezioni. È stato appena lanciato un sito dal Parlamento europeo che va proprio in questa direzione. Ne parliamo con Andrea Maresi, responsabile delle relazioni con i media del Parlamento europeo in Italia. Ciao Andrea, ben ritrovata all'altra Europa. Ciao, buongiorno a tutti. Election2014.eu/it, che cos'è? Ma diciamo un punto di riferimento, è un sito dedicato alle elezioni europee dove mano a mano si caricheranno tutte le informazioni relative a questo appuntamento, e io penso che è interessante già subito collegarsi e vedere quali sono le formazioni che ci saranno, insomma, nei vari paesi, i vari pesi, le varie differenze. E c'è un gioco ad esempio molto interessante secondo me da fare, perché ti fa capire quali sono le tue inclinazioni politiche anche rispetto ai gruppi europei. Si chiama Cast My Vote, ovvero vota, e in pochi clic riesci veramente a capire, magari avere delle sorprese rispetto alle tue posizioni standard. Comunque l'importante è capire perché questa volta, come dice anche lo slogan, dicevi anche te prima nell'introduzione, è diverso. E magari possiamo approfondire questo, certo, questo tema. Infatti, perché è diverso questa volta, Andrea? Ma guarda, è diverso in primis perché il Parlamento europeo ha acquisito attraverso il Trattato di Lisbona poteri maggiori. Il Parlamento europeo è in pratica appena più o meno per l'80% delle sue decisioni in codivisione con gli Stati membri e di fatto decide delle direttive, delle leggi che vengono poi applicate su tutti i territori e che hanno un impatto diretto sulla nostra vita di tutti i giorni. E poi l'altra cosa è il fatto che il Parlamento europeo per la prima volta non si farà imporre dagli Stati membri la decisione, la nomina, diciamo, con un avallo semplicemente maggioritario del Presidente della Commissione europea, che di fatto è il primo ministro, insomma, del governo europeo, ma dovrà votare il Parlamento per questo tipo di nuovo ruolo, nuova funzione. Gli Stati membri daranno una indicazione di massima e poi sarà il Parlamento che sceglierà, quindi a seconda che sarà poi un socialista, un popolare, piuttosto che un liberale, un euroscettico, un verde, lui con la sua politica come Presidente della Commissione europea determinerà quali saranno le scelte di quale Europa, in quale direzione, verso, insomma, la crescita, più fuori, insomma, comunque sapremo in primis subito chi, quale Europa ci porrà diciamo, davanti un certo tipo di elezione. Ecco perché poi sicuramente il fatto di associare i partiti politici nazionali con i gruppi politici europei, ovvero io so ad esempio che il Movimento 5 Stelle, facciamo un esempio, sì, in Europa si posizionerà in questa maniera, si posizionerà con un gruppo che magari sull'euro la pensa in una certa maniera, politica economica nell'altra, per quanto riguarda la tassazione, l'accesso ai mercati, l'immigrazione e quant'altro. E io saprò se intanto è coerente, per vedere con una cartina di tornasole subito se è vero che quello che mi raccontano in Italia sarà poi quello che accadrà, si farà, certo, a livello, insomma, in Europa. Certo. E poi posso scegliere meglio chi mi rappresenterà nel nuovo Parlamento. Andrea, con l'altra Europa spesso abbiamo giocato, no, a raccontare, sì, l'Europa del palazzo, però poi anche l'Europa delle storie, delle persone e delle facce. E mi sembra che nei prossimi sei mesi si tenterà di personalizzarle un po' di più queste elezioni, di scaldarle. Lo stesso Parlamento europeo, le stesse attività che voi avete in programma in questi sei mesi è proprio quello sono indirizzata dal andare in mezzo alla gente, farla toccare questa Europa. Saranno sei mesi che aiuteranno a conoscerla meglio, l'Europa, a renderla più friendly? Ma sono sicuramente sei mesi importanti di contatto sul territorio. Come vedete, dalla campagna di informazione che è partita lo scorso settembre, ci sono diversi eventi in ogni Stato membro, ce ne sono stati due, uno a Roma e uno a Napoli, poche settimane fa. I prossimi appuntamenti sono il 23 di gennaio a Cinecittà a Roma, sì, poi il 14 di febbraio alla Sapienza sempre a Roma, e a marzo non vi svelo il posto perché ve lo andate a trovare nel sito internet di cui avevamo parlato poco fa, certo, sulle elezioni europee, per cercare di coinvolgere la cittadinanza e informarvi su tutte queste nuove novità, su questi nuovi poteri, queste nuove possibilità che attraverso questo voto potranno esprimere. Io dico sempre che andare a votare alle elezioni europee oggi con questi nuovi poteri è come votare anche alle elezioni nazionali, quindi essere un cittadino che esercita il proprio voto democratico è fare il primo tempo di una partita senza farne il secondo, cioè non esiste una partita che uno fa il primo tempo poi rimane negli spogliatoi, se rimane negli spogliatoi hai già perso, quindi se hai votato e credi nelle elezioni nazionali, nel potere democratico di tale strumento, devi andare a votare le europee, perché poi saranno anche gli eurodeputati italiani che incideranno su cosa e come verrà decisa questa Europa, le leggi che dovranno poi ricadere sul nostro come applicazione nel nostro territorio. Certo, è la naturale conseguenza di questo anno della cittadinanza. Siamo diventati cittadini europei, guarda, ora abbiamo il nostro diritto e questo diritto. Esatto, guarda, poi quello che dici te della personalizzazione, che è una cosa centrale, secondo me, rispetto a dare un volto, no? Qualcosa magari di lontano che uno può avere come percezione d'Europa, che non è proprio dietro, anche se io dico sempre l'Europa, insomma, è l'Italia, sono i nostri territori, non è che l'Europa è qualcosa di fuori. E avere i candidati, come dicevamo prima, che dovranno essere espressi dai vari gruppi politici europei, come per esempio il PSE, l'ex PSE, sì, oggi SD, che è il gruppo dei socialisti europei, ha già candidato l'attuale Presidente del Parlamento Europeo, che è Martin Schulz. Mano a mano lo faranno anche le altre formazioni, quindi capiremo con un volto, con le loro azioni, con la loro diciamo, voglia di cambiare un'Europa che può essere magari più vicina ai cittadini, più meno burocratica e meno astratta, un voto che poi insomma avrà conseguenze dirette relativamente al personaggio che la rappresenta. Andrea, grazie davvero. Andrea Maresi, ricordiamo il sito election2014.eu/it per le pagine in italiano. Andrea, credo che ci ritroveremo spesso nei prossimi 6 mesi, quindi ci avvicineremo insieme a queste elezioni. Ciao, grazie, buon sabato. Federico, grazie mille, sempre a disposizione quando vuoi. Europost-it. Servizio volontario europeo in Danimarca dai 3 ai 12 mesi. Se siete interessati a lavorare nel sociale e a fare un'esperienza all'estero, questo SVE fa il caso vostro. L'organizzazione AFS Interkultur Denmark sta cercando volontari per 4 progetti che prenderanno il via la prossima estate. Le cooperative ospitanti offrono lavori nell'ambito della cultura, del turismo e della gestione della disabilità psichica. Come ogni servizio volontario europeo, sono previsti assicurazione, vitto e alloggio, un rimborso spese per il viaggio e un pocket money mensile. Per partecipare è necessario inviare il curriculum e una motivation letter specifica in lingua inglese entro il 15 dicembre. Maggiori informazioni collegandovi al sito scambieuropei.info. Beh, visto che abbiamo detto più volte che l'Europa è fatta da persone, da storie, da facce, andiamo a vederle un po' di questi ritratti europei. Lo facciamo con una mostra che è presso il Museo delle Culture Europee di Berlino. Si intitola I'm Not Afraid of Anything, ritratti di giovani europei, una mostra fotografica di Hegdar Zippel, che per noi ha visitato Giuseppe Fornasari, che è amico e collega del fotografo e vive da quelle parti. Ciao Giuseppe, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Tanto cosa ci fai tu in Germania? Allora, io lavoro qua da 18 anni, abito qua, sono mosaicista. Mosaicista? Sì. Attenzione, dove vendi e dove realizzi i tuoi mosaici? Allora, li realizziamo nel nostro laboratorio, qui in centrale a Kreuzberg, e li vendiamo un po' a varie persone. Abbiamo già lavorato per musei, chiese, privati, ristoranti, insomma, cose un po' varie. Sei un tra il cervello in fuga e l'artista in fuga? O sono un artigiano in fuga, diciamo. bello, l'artigiano in fuga ci mancava come categoria. Sì, ancora prima della fuga di massa che sta venendo da qualche anno, 18 anni, insomma, metà degli anni 90, è passato un po' di tempo. Sei amico di Zippel, di Edgar? Sì, lo conosco da circa una decina d'anni, i figli erano in classe assieme a scuola, poi ci frequentiamo abbastanza spesso, insomma. È fondato nel 1999, il Museo delle Culture Europee di Berlino possiede una delle più grandi collezioni di pop art e di oggetti quotidiani, il patrimonio culturale materiale e immateriale dell'Europa, e ora ospita questa mostra. Sono 100 ritratti di giovani scattati in giro per l'Europa, giusto? Sì, precisamente in 7 paesi europei, per la precisione in Islanda, Gran Bretagna, Portogallo, qui in Germania, Moldavia o Repubblica Moldova, Polonia e in Italia chiaramente anche. Allora, abbiamo caricato nella nostra pagina di Facebook, la mia personale, un po' di foto. Giuseppe, ci fermiamo un attimo di pubblicità, poi torniamo da te, così ci fai vedere questa mostra in radio. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'altra Europa, chiocciola Euronet Plus R24, oppure chiocciola Federico Taddia per trovarci su Twitter e Facebook, piazze virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con tutti i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare, dove abbiamo pubblicato anche alcune delle foto che fanno parte della mostra Ritratti di giovani europei che si tiene al Museo delle Culture Europee di Berlino. Ce ne sta parlando Giuseppe Fornasari, che l'ha visitato e conosce personalmente Edgar Zippel, l'artista, il fotografo che ha realizzato questa sorta di ricerca etnografica, perché è andato in giro per l'Europa a caccia di che cosa, Giuseppe? Qual è il tratto comune di questi volti, di questi ritratti? Ma praticamente la sua ricerca è quella di scoprire o di cercare di trasmettere se la generazione nata a ridosso della caduta del muro, se è diventata più o meno uniforme o se ancora ci sono dei connotati regionali. E penso che sia riuscito in questa ricerca qua, in quanto a volte si notano i gesti delle persone, il tipo di sguardo. È una mostra, diciamo, molto molto particolare. È durata circa 5 anni la sua ricerca, E, insomma, le differenze regionali secondo me sono ancora ben visibili nella maggior parte dei casi. E potremmo fare una citazione, è un piccolo mosaico d'Europa quello che ha realizzato? Sì, un mosaico di volti, di persone sicuramente. Ok, tanti tasselli. E a ciascun volto, a ciascuna persona fotografata ha posto anche delle domande, in particolare tre domande: che cosa vuoi, che cosa ti rende felice, di cosa hai paura. E quindi un'Europa raccontata anche attraverso i pensieri di questi soggetti. Sì, infatti l'ultima domanda, di cosa hai paura, è quella che ha ispirato poi il titolo, è il titolo stesso della mostra, è piaciuto molto alla curatrice, e quasi tutti i soggetti intervistati hanno risposto di non aver paura di nulla. C'è solo un caso di un moldavo che abita nella zona al confine con la Transnistria, zona un po' di guerra, di tensioni, così, e lui dichiara di aver paura di morire. La maggior parte delle altre persone invece dichiara di non aver paura di nulla. Edgarzippel.de, il sito ufficiale per conoscere il fotografo e vedere anche un piccolo assunto della mostra. Giuseppe, grazie per la tua fotografia. Appunto, ci hai fotografato una mostra di fotografie e non è facile farlo in radio. A che mosaico stai lavorando in questi giorni, in queste ore? Attualmente stiamo facendo il pavimento per una birreria a Monaco, il logo della birreria. che bello, uno si immaginava chissà che cosa, invece anche la birreria giustamente ha bisogno. Anche la birreria, sì. Grazie davvero Giuseppe, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Buon sabato, ciao. Europost-it. Conoscere i Balcani e la Turchia in un kit. 3 video, 8 fotoracconti e 8 schede di approfondimento culturale perché l'Europa allargata sia anche dei più giovani. Sono i materiali didattici preparati da Osservatorio Balcani e Caucaso per gli studenti delle scuole medie, inferiori e superiori per far conoscere loro argomenti della storia europea recente, come la dissoluzione della Jugoslavia e il processo di integrazione europeo o la storia della Turchia dalla sua modernizzazione fino al suo percorso verso l'ingresso nell'Unione. Tutti i materiali sono navigabili online e sono completamente gratuiti, sviluppati dai professionisti di Osservatorio Balcani all'interno del progetto europeo Racconta l'Europa all'Europa. Trovate tutto su balcanicaucaso.org, nella sezione dedicata. Questi sono i nostri Europost-it, vi ricordo che potete poi riascoltarli sul nostro sito radio24.it oppure sulle nostre piattaforme, sui nostri social network per trovare tutti i link relativi. Adesso parliamo di Natale, parliamo di giocattoli, parliamo di sicurezza. L'Unione Europea conta circa 80 milioni di bambini di età inferiore a 14 anni e il settore giocattoli coinvolge circa 2.000 aziende e 100.000 dipendenti. Ogni anno, da un paio d'anni, l'Unione Europea ci ricorda appunto questo campanello d'allarme relativo alla sicurezza. Ne parliamo, ci ha raggiunto qui in studio, con il capo del settore stampa e media della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Diamo il benvenuto a Evelina Jelenkowska. Ciao Evelina. Ciao. Ciao, grazie per aver accettato il nostro invito. Arriva Natale, come ogni anno la Commissione Europea ci ricorda che i giocattoli sono qualcosa di importante. Venerdì, per rilanciare questa importante campagna, arriverà in Italia il vicepresidente della Commissione Europea Antonio Tajani per questa giornata. A Natale regala la sicurezza CE. Come mai questo ritorno ogni anno a questo richiamo, a questa attenzione? È un problema reale? È un problema reale perché a volte i consumatori non ci pensano, non ci pensiamo noi tutti quando compriamo i giocattoli, quanto sia importante essere sicuri che compriamo un prodotto non solo bello, non solo divertente, non solo desiderato dai nostri figli, ma anche un prodotto sicuro, fatto bene e fatto legalmente. Quindi questa campagna noi la Commissione Europea la facciamo ogni anno e anche quest'anno nel negozio vicino a Piazza Venezia, Little Big Town, venerdì prossimo effettivamente alle 10:30 ospiterà vicepresidente Tajani che presenterà la nostra campagna, la campagna per sicurezza dei giocattoli, quindi la campagna di sensibilizzazione al marchio CE, appunto, quindi questo marchio che noi consumatori, clienti dovremmo sempre cercare per assicurarci che il giocattolo è stato fatto con i prodotti giusti, che contiene delle informazioni importanti, come usarlo, come utilizzarlo, che sia adatto all'età del nostro bambino, eccetera, eccetera. Bisogna dire che le norme europee sono le norme più stringenti al mondo, quindi questo marchio c'è, da un lato dà la sicurezza a noi, ma dall'altro lato anche facilita la vita e dà la sicurezza alle aziende che operano legalmente sul mercato dell'Unione Europea. Tra l'altro, in un Natale segnato dalla crisi, dove magari ci può essere anche la tentazione ad andare a cercare comunque prodotti più economici, ma troppe volte questi prodotti più economici poi non garantiscono la sicurezza, quindi credo che sia fondamentale sottolineare l'importanza di questo marchio, che non è solo un simbolo, vuol dire che dietro c'è tutto un mondo, c'è una tracciabilità, c'è l'attenzione ai prodotti, e ci sono anche consigli pratici, quasi di buon senso, che comunque ricordate ai genitori. Sì, sì, esatto. Noi abbiamo una pagina dedicata nostra della Commissione Europea, dove abbiamo diamo i consigli, a volte appunto abbastanza banali, che spesso vengono negletti, come per esempio il primo: leggete le istruzioni del giocattolo. Abbiamo i giocattoli sempre più complicati, non tutti sono adatti, nonostante magari gli amichetti ce l'hanno, vale sempre la pena andare a vedere che rischi ci sono, come utilizzarlo, che parti si possono staccare. Per esempio, il primo rischio per i bambini di 3 anni, che molto spesso li vediamo già molto svegli, sviluppati, e quindi magari abbiamo la tentazione di dire ma sì, ma che vuol dire, che importa questo marchio, questo segno, no? Perché ci sono dei segni che indicano, ecco, questo è il giocattolo non adatto sotto 3 anni. Ecco, noi invitiamo la gente a prenderlo sul serio. Una campagna europea, e c.europa.eu il sito per entrare nei dettagli, anche trovare i link relativi a tutti questi consigli. Ma poi c'è anche un aspetto ludico, visto che si parla di giocattoli, perché la campagna è accompagnata da uno spot. Sì, è uno spot che a noi ci piace, vorremmo dargli più visibilità possibile, non speriamo di raggiungere il successo di Pulcino Pio, però c'è una musichetta carina che vorremmo anche rilanciare, perché è uno spot che abbiamo fatto da un po' di tempo, da un annetto, che presenta questo robotino simpatico che promuove appunto il marchio CE, che come detto protegge da un lato la sicurezza e dall'altro lato che siano prodotti autentici. Abbiamo messo il link su Facebook e su Twitter se volete vedere lo spot, però ve lo facciamo anche ascoltare. Questo è il robotino che richiama alla sicurezza e al marchio CE. E questo è lo spot. Stavi pensando a Tajani che ballava durante la presentazione. Io, sarebbe divertente, sì, per spiazzare, capito? Durante appunto l'appuntamento ufficiale. Ricordiamo quindi venerdì prossimo il rilancio, ec.europa.eu per conoscere tutti i dettagli. E adesso ci fermiamo, un Europostit, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Europostit. La mia Europa è. In occasione del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea nel 2014, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, insieme al Dipartimento delle Politiche Europee e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha lanciato il concorso nazionale per le scuole La mia Europa è. Gli studenti dovranno realizzare un marchio o un logo per la promozione del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea ed anche uno slogan. Possono partecipare al concorso gli studenti delle scuole di ogni età, che dovranno prima documentarsi sul tema della cittadinanza europea, servendosi anche del materiale pubblicato sul sito ufficiale europa.eu. Il progetto vincitore sarà annunciato entro il 31 dicembre 2013 e verrà premiato a Roma nel 2014. Gli autori vinceranno anche un viaggio a Bruxelles e la possibilità di visitare il Parlamento europeo. Il marchio e gli slogan saranno utilizzati in tutte le comunicazioni promozionali del semestre di presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea 2014. Trovate più informazioni e il bando sul sito iostudio.pubblica.istruzione.it. Il tutto scade il 22 dicembre. Stai sereno, il tuo gioco è sicuro. Insomma, Ormai è, sì, ci ha preso questa musica anche Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti, i miei tecnici dall'altra parte del vetro stanno ballando questo Pulcino Pio 2.0. Vabbè. Evelina, non abbiamo detto tutto, perché c'è sicuramente un aspetto fondamentale di questa campagna, che è quello legato alla contraffazione dei giocattoli. Sì, questo è, la contraffazione è un problema serio in generale, perché ci fa perdere alle nostre aziende, fa perdere a noi le risorse, perché ovviamente chi lo fa non paga le tasse, tutte queste problematiche. Però nel caso dei giocattoli il problema è molto più grave, perché molto spesso, questi giocattoli sono prodotti a basso costo e senza rispettare le norme di sicurezza. Quindi qui stiamo parlando non solo di un grosso mercato che ci, soprattutto in tempi di crisi, ci sta privando di una fetta che ci appartiene, ma anche stiamo parlando della sicurezza dei nostri figli. Quindi, tornando a quel discorso che avevi accennato, che effettivamente nei tempi di crisi, sotto Natale, quando abbiamo tante spese diverse, magari siamo tentati di risparmiare un po' su qualcosina, ecco, il nostro messaggio come Commissione Europea è soprattutto: non risparmiate comprando i giocattoli nei posti non sicuri, rischiando di comprare quei contraffatti, perché rischiamo la salute direttamente dei nostri figli. Ricorda ancora c.europa.eu oppure sulle pagine Facebook della Commissione Europea. Evelina, adesso ti faccio fare un viaggio culinario, perché qui raccontiamo anche l'Europa della cultura. Tu sei polacca, quando sei arrivata in Italia per la prima volta c'è stato un cibo che ti ha subito colpito, che ti ha convinto che questo era il posto giusto dove stare? Diciamo che il cibo italiano, ovviamente famoso in tutto il mondo per la sua, però è talmente famoso che lo conosci anche prima di venire in Italia. Okay. Quindi il momento di arrivo non è importante. Io devo dire che in privato a casa mia si mangia in italiano, nonostante mi manchi la cucina polacca, quindi la cucina polacca spesso perde rispetto a quella italiana. Allora prendi appunti, perché ti faccio ascoltare una ricetta. Olio, rosmarino, aglio. Quando l'olio comincia a soffriggere, fagioli. Sapore? Ho messo l'olio a rosolare per passare. Si chiama Foods and Life, è un viaggio nell'Unione Europea in camper per portare un pezzo d'Italia a tutti coloro che mostreranno un po' della loro cultura e del loro paese, una sorta di baratto delle idee, di baratto delle ricette. È il progetto ideato da Matteo Tibaldi e Christian Orsini, stanno cercando di raccogliere i fondi necessari per fare questo viaggio nel cuore dell'Europa, perché l'Europa si fa anche così, l'Europa si fa conoscendosi, e la cucina è sicuramente uno dei vettori principali. Con noi Christian Orsini, ciao e benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, sono qua. Ciao Christian, da dove nasce questa idea? Come mai avete deciso di intraprendere questo viaggio? Ma diciamo che in Italia, ma non so se è così anche negli altri paesi, non ci sono, cioè comunque non c'è una, insomma, le opportunità in generale per i giovani, ma per chiunque, non sono sempre a portata di mano. E io ho trovato questo sito di crowdfunding. Sì. E mi sono detto: perché non sfruttarlo per crearmi un'opportunità? Ne ho parlato con Matteo, che è amico mio da circa 8 anni, perché andavamo a scuola, diciamo, insieme, e quindi si è detto: ok, forse l'idea può essere proprio quella di farlo attraverso il cibo. Ci piace cucinare, ci piace muoverci, e allora proviamoci e partiamo. Quindi partite con questo camper sul quale avete caricato delle ricette, di fatto? Esatto, ora partiamo. In realtà l'idea è proprio quella di partire grazie ai fondi trovati attraverso la raccolta fondi, appunto. Chiaro che la raccolta fondi terminerà il 24 di dicembre. Uh-huh. E fino a quella data noi non siamo certi di partire, stiamo cercando ogni modo per riuscirci, però insomma l'obiettivo si raggiunge solo a raccolta fondi, diciamo, ultimata. Dacci il sito intanto per conoscere il progetto e magari contribuire alla sua realizzazione. Ok. Il sito è Indiegogo, si scrive indiegogo.com, e da lì, tramite insomma lo sportellino di ricerca, uno mette Foods and Life e trova, cioè, solo il nostro progetto, quindi non può sbagliare, diciamo. Ma perché il cibo, proprio per raccontare l'Europa? Qual è stata l'intuizione di partenza? Perché allora, principalmente siamo partiti dall'idea che ci piaceva trovare dei punti di somiglianza, di vicinanza tra diverse culture, tra diversi popoli, e ci siamo detti le persone, tutte le persone respirano e mangiano, indiscutibilmente. Dato che sul respirare non potevamo indagare più di tanto, abbiamo detto ok, il mangiare. Poi, considerato che siamo italiani, che abbiamo questa cultura del mangiare, che diciamo molte famiglie italiane, penso un po' tutto il mondo, la domenica, comunque hanno un momento a settimana nella quale si ritrovano per stare insieme, per essere una cosa sola, ci siamo detti andiamo a vedere anche gli altri come vivono questa realtà, come si sentono uniti, e magari cerchiamo anche noi di unirci, di trovare questi punti di unione, diciamo. Certo, una sorta di Erasmus della cucina, ci piace, quindi in bocca al lupo per la vostra raccolta fondi, e fateci sapere, perché poi ci piacerebbe anche accompagnarvi di ricetta in questo viaggio attraverso l'Europa. In bocca al lupo, ciao, grazie. Ciao. E questo grazie va a tutti voi per essere stati in nostra compagnia. Un grazie a Margherita Ina e a Miriam Lucchetti, che con me hanno scritto la puntata, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti alla parte tecnica. Un grazie a Evelina Jelenkvoska. Ciao Evelina, sì, lo so che il tuo cognome per me è sempre un ostacolo, però mi sono dato il compito di... Ce la possiamo fare. Prima abbiamo parlato con Andrea Maresi dei prossimi 6 mesi in vista delle elezioni europee, anche per voi come appunto rappresentanza in Italia della Commissione europea, credo che saranno 6 mesi... non so che aggettivo trovare. Intensi. Coinvolgenti, perché è quella la parola chiave, no? Speriamo coinvolgenti, insomma, per muovere tante teste, tante idee, tanta gente, cosa che quest'anno avete fatto con i dialoghi con i cittadini, proprio portando l'Europa in strada, e questo continuerà in mille modi nei prossimi 6 mesi. Grazie ancora, in bocca al lupo. L'appuntamento con l'altra Europa è a sabato prossimo, come sempre, alle 10. Ancora ciao da Federico Taddia. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.